le telecamere mi vengono in mente, mi prendiamo la patente della macchina, non so cosa. Passare loro può passare loro, la notte può stare rimane attaccata a mio fratello come se fosse un coso, una calamita purtroppo, su queste case qua, quindi. Però, il padre Bato, ascolta, il padre Bato tuo, quello che c'è tu, che cosa fa? Quante volte c'è l'uscita? Fa tutto uno, no? Mi sembra, non sbaglio. Se non mi hai pagato, te lo ricordi tu? Grazie amore mio, grazie, tu sì che mi cambi il nervo. Allora, Antone, quello fa da uno, adesso non mi ricordo, dai 160 metri sarà da 1,8, 1,5 MHz fino ai 56 MHz in sintonia continua. Tutto, da 1 MHz e mezzo fino ai 56 MHz, forse riceve anche più in basso, non lo so. Poi fa 100, vabbè, grosso modo 140, 100, 100, non lo so, in VHF non so quanto fa, comunque è espanso, 140, 170, no, balle, finisce ai 140 e ai 163 mi pare, finisce prima, non so perché, poi 400, 470 dovrebbe fare, capito, però in basso fa da 1 MHz ai, in trasmissione ai 56 MHz, tutto copre, modificato, capito. Da Media Globe hanno i prezzi migliori, devi contare l'apparato, 15 euro della modifica, più la spedizione assicurata, perché ha un certo valore, quindi devi fare la spedizione assicurata che ti conviene, in totale a me era venuto 798 euro. E vabbè, tanto io devo fare la domanda, si chiama rientro a casa in pratica, capito? L'Inps mi dà 1200 euro ogni mese, quindi a voglia, come avere uno stipendio, tutto lì, capito? Quindi ya, non posso anche prendere, adesso devo farla mi fa lunedì, faccio questa domanda qua, penso di avere la... la OK, penso di averla in il prossimo mese. E la madre di Finocchio si calcio, tu sì che mi cambi in niente. Sono 20.000 euro, così mi ha detto una delle poste natali. In pratica, quindi sono un anno e mezzo, giusto? A 1200 euro dovrebbe essere un anno e mezzo. Oh Natali, ma tu l'avevi visto il trans o no? Così mi pare, Finocchio. E come fai a sapere che è proprio la scheda madre? Allora voi coprite il portatile Acer, quanto mi dai? Tutto c'è speso a donnaccia di vicino, eh? Con quello che c'è di vicino a sé che è bella alta, bionda, con le tette fuori e parla da maschio. È un casino, Natali. Ma tu, ascolta, Natali, su WhatsApp dove ti devo contattare? Sull'ultimo numero o sul numero precedente? Oppure 23 40 81 oppure 26 18 26 Natali. C'è un'agitazione lì, ci sei tu, ci sono passato anch'io, c'è Roberta addirittura, mi ha fatto pochi numeri di telefono questo, c'è un computer registrato, già ti do il rapporto così ti scarico il file. Guarda che porto bello, ce ne sono di quelli computer Natali, basta che fai un giro. Ce ne sono io con i computer, 20 euro, 30 euro, una cosa del genere. Dai un'occhiata, non costa niente dare un'occhiata. Vai da Portobello e controlli quei computer che ci sono. Magari è uguale a quello che c'è tu, la scheda madre, non fai altro che prenderlo e da uno ne fai due, no? Il mio portatile ha 12 anni quasi, 11 anni e mezzo, è obsoleto, funziona ancora, ci ho messo Firefox di browser e adesso funziona, invece con Explorer non vedeva più le pagine, capito? E c'ha XP e c'ha, è bello perché c'ha tanti programmi a sbaffo, capito, di allora. Se cambio computer sono tutti a pagamento i programmi. Io ho Windows 8 più 1 nel portatile, nella secondo di Giampiero. C'ha 2 anni quel computer, non di più nemmeno. Nuovo, se non l'ho usato 4 volte. Già è grande, già ti mando la foto, guarda lì. Ti mando la foto, ti faccio vedere domani la foto, va. Se mi faccio una passeggiata giù al centro pubblico ti faccio vedere, c'è un fotografato nel telefonino, che lo stavo vendendo. Te lo faccio vedere acceso, cioè era... c'è una foto quando è acceso e così vuol dire. Già è grande, già, abbastanza. Intanto mi usa Alice, mia nipote, ma quando viene, stasera ho passato tempo la questa. Perché io ci ho messo dentro l'armadio e era già stato in kibbe, che c'è un po' il notebook, capite? Nero, piccolino. C'ho il Windows 7. E quindi l'altro è un casino, usarlo. Ormai ci è piaciuto, per un Windows 8, è un po' per le roba, le fare secoli di. Non lo conosco, capito? Già lo conosco per quello che c'ho. Però va bene quello che ci ho capito, cioè quello di Giampiero, è perfetto. Non fa la provincia, lo fa. Quello che ho il notebook non lo uso quasi mai. Devo stare a giuntiare col computer, stare accendi, spegni. Poi se prende agli occhi, no. Mi ha dato che mi sono combinato la vista, facendo riparazioni con le lampade e devo stare a sventiare il computer, non stare a toccare in culo. Anch'io ho rovinato la vista col computer e in più io avevo lo schermo a tubo catodico e ci stavo attaccato a 20 cm, figurati cosa hanno fatto agli occhi. Stavo in razzo, già, è basta. La stessa cosa del tecnico, tu mi hai visto un tecnico senza occhiali. Purtroppo i tecnici è così, finisce così perché quando lavori con la lampada e stai saldando, il riflesso del circuito fa basso. È come andare a 1500 metri in altezza e ce la leva in terra, hai capito? Perché ti fa riflesso la lampada, o ti metti un paio di occhiali da sole, se no sei fregato, perché ti crepa gli occhi, ti crepa proprio, ti fa lacrimare. Avete parlato in due, ripeti Natalie. Io invece di solito foto, video, tutte quelle cose importanti, documenti, le salvo sugli hard disk esterni. Anche film, musica, quella è tutta cifrata, criptata, capito? Non può essere aperta. Dati personali, sai, documenti fotocopiati, tutta roba criptata, no? Che anche se entra un hacker non li può vedere, capito? Oh, yeah. Vero Claudio, eh? Sì, tutto criptato, tutto, ma mai si vede il computer. Volete sapere l'algoritmo AES, A-E-S, che non lo apre nemmeno la NASA né il coso, come si chiama? L'NSA, c'è una cifratura a livello militare per la testa tosta. Oh, no, non me ne intendo io. Io faccio le cose essenziali e basta. Uno ce l'ho per le radio, finalmente sta funzionando, l'altro ho comprato uno. Quando mi serve la cena, c'è una settimana spento, prima che la cena sono 50-60 mila. Va bene. Quindi Antonè, fatta è, quadri banda. Sì, Claudio, se stavi a sventiare a prendere l'apparecchio per dire un chemodo, gli aeso e se la biglia in comune. Io quando in banda, 700 euro va a far culo. Tanto mi paga l'Inps a me, ogni mese mi 200 euro, se me lo posso anche permettere una volta di comprare qualcosa di più come si deve. Ti pido un po' di banda e hai già finito di comprare. Boh, poi non prendo più niente. Ma me la conservo, quello che c'ho, devo un apparecchio unico, senza stare a giunchiare con 50 baraccini, uno sopra l'altro e portate a destra, portate a sinistra, mi dici portate di me. Mi tengo il GMR per fare qualche antenna se mi capita in seguito, perché sennò questi li rimarranno conservati e vanno a far culo. No, mi sto pensando a quelle bande, io quelle bande testato in AM, funziona bene in AM, è un quadro in banda ottimo, nuovo, usato pochissimo, risparmi qualche cosina e ce l'hai nuovo. Dobbiamo andare qui, siamo già d'accordo con Marco, dobbiamo andare 4-5 minuti e faccio un giro, hai capito? Così ci mettiamo tutti due assieme. Sì, sì, vogliamo fare gli abusivi anche noi, capito? Pigliati il 2000, il quadribanda alla base, il 2000, come si chiamava Claudio, quello quadribanda, si chiamava il 2000, non mi ricordo se era della Kenwood o di chi era, della Yaesu. No, non ti esce 2000 della Kenwood, l'ho comprato io nuovo, quando ero uscito 2000 e più di 2000 euro costava. Però a me piace la radio separata, hai capito, quindi non l'avevo venduto. Ma il quadribanda non mi interessa, io su tutte le radio separate, vabbè, ma io faccio altro tipo di attività, anche se sono sempre qua, però ce li ho e quando devo usare li uso. Però per Antonello è fattibile, visto che lui è appassionato un po' di tutte le bande, ti prende un quadribanda, lo usi il 27, quando vuoi prendere il 27 te ne vai dove il cavolo ti pare, ti piace. L'importante è che lo usi con la testa sul collo, altro non ti posso dire. È categoria protetta, Eli, ho capito, non fanno niente. È incapace di intendere volere, capito? È matto, mi. Eia. Ciao, Elio, sì, fatto lo so, Elio, la verità è. Qua arriva benissimo, 9.30 alle 10.05. E allora, Elio, c'è un tesserino, non paga entrare, non paga niente, Antonella. Quindi quando l'avrete, cosa ne abbiamo di io? Io, vai. Ha detto se glielo fai avere anche a lui il tesserino. Ah sì, di me, mi sto scrivendo all'Isis, Elio, a me non mi toccano, hai capito, mettiamo paura. Ma ti devi far crescere la barba da arabo. Sì, ce ne sono barbe fitte di Babbo Natale, non è quello. Certo, 2000? No, ti sento male, la verità, mi ti sento male col 2009, sei leggermente stato, la verità, hai detto no, ti avete capito, adesso mi, aspetta, comunque è stato quelle, il magno, quello che mi ha dato Stefano, sai, perché oggi ti sento meglio. Non so, guarda, la verità, forse per il 2009, però mi sento bene, ma lo stesso, se tu che sei leggermente stato così. Se no, io non ti avrei detto niente, la verità, Sì, è saturo, è come che avessi un lineare, mi sei saturo. Satiro, o satere, come diceva Gregnonio. No, adesso bene. Sei chiara, allora c'avevo ragione io. Ma cazzo te l'ho detto, meno male? Avete dicendo che c'avevi un PS 2000? A me interessava usare il 27, poi al limite in PMR, poi del resto le altre frequenze. Se capita magari un Marco, facciamo la prova di 45, poi voglio dormire, adesso un giorno non ci vado lì, così mi faccio arrestare subito e mi danno anche la pensione. Scrivo a Renzi. Qual è il problema? Prova Elio. Però sai un fischio adesso, prima non ce l'avevi. Adesso già va bene. Per carità. Peso, il 10.000 sarà piccolo, allora, vestito qua di banda normale come quello di Marco e già esce bene, o come quello che c'era l'Atalino che ci va benissimo, in AM, l'unica cosa è proprio che c'era quell'attacco tipo telefonico per il microfono, e basta. Ah, ora ci andiamo dopo. Ho detto la tariffa, non te l'ho inteso. Non lo ricordo, infatti. stai al limite li attacco o mi compro l'MP5 o qualcosa, o salerta, li metterò quello. L'importante è che esca. Poi usciva veramente bene, mi c'è provato uscita, c'era tutto, faceva quella, me lo ricordo. Era veramente bello come apparecchio. Natalino, ma tu te le ricordi le impostazioni che hai messo per uscire bene? Pirati, siete dei pirati. Mi Natali, ti sente Elio? Comunque anche me, vedi la strada di mano, come quello di Marco, credito, uguale, che funziona bene, qui si è a posto, vai dove vuoi, anche 45 metri puoi andare. Guarda Antone, puoi pigliare un 897, se lo trovi ancora, che è uscito di produzione, no, perché l'FT 991 l'ha sostituito, un 857, anche facilmente imboscabile, no? Capisci a me? Dimensioni è piccolo, si piglia una base dove te lo nascondi? Nel culo. Scusate la parola. C'è ragione, quello della macchina è più bello, poi nascondere subito. Devi valutare anche quelle cose, no? Se vuoi fare certo di attività abusiva, come dicevo io, abusivi. E dentro un mobile ce lo posso mettere? È un mobile così a coso, c'è un filo dentro. Non si vede nulla. Mi metto l'attacco del PL femmina da dietro. Dopo tra che stacco il coso non si vede niente. Sembra un mobile, si rimane chiuso a chiave, non si vede nulla. Oh, il pupugno, sì, anch'io ho tante fantasie, la patente, ma quale patente? Quale patente? Uff, no, perché non avrei voglia, francamente, di stare appresso a cluster, a zuffarmi con computer, con coso, no. Guarda, preferirei usare il taccuino con la penna, come ai vecchi tempi. Devi avere la stazione fatta bene, il computer attaccato vicino alla radio, in modo una rottura di balle. Una rottura di balle. Voglio starci nel 27. Ok. E subito ci voglio per fare l'arrivatore, cosa è quello? Se tu pigli il patentino e non c'hai gli apparecchiature giuste, ti pigliamo pure per il culo, sono l'altro. Non è che puoi scegliere con l'apparecchio vecchio. Cioè, devi spendere un bel po' di soldi. Solo vi ci vogliono soldi per questa passione. È come andare a caccia, fare uguale, fa la stessa cosa. Bisogna spendere solamente soldi e fatto. Le antenne ci vogliono prima, Antonio. Sempre le antenne prima. A parte le antenne, a cui c'hanno i bobo le antenne. Lui, ecco. Poi a sapere, meglio sapere come sto qui. Mi ricordo, mi voglio più da fare tutte le antenne, rimangono quelle che ho, boh, non è lo stato altro, no. Mi basta quella direttiva che ho, la X300 e la macchina, boh, non spendo altri soldi in antenne. La direttiva in garage, lampada, quella lì, adesso vediamo. Cosa farne, non lo so neanche io cosa diavolo farne. Forse là possiamo avere qualcuno che gli serve, non lo so. Se la giornata ce la piacerà. Io non posso di certo mica la posso spezzare in campagna, no. Così come la tira vengono i rumini, la taglia la fetta e te la vendono. Sì, ma non la puoi piazzare neanche dove sì. Non c'è appoggio, Antonio. Ci vuole ci vogliono i sistemi per le direttive, non è un gioco per le direttive, lascia per. Io ho parlato 15 anni prima di metterla, però adesso ci sono e le prendo, capito? Però il lavoro vuole fatto come cristiani, se no ragazzi ne c'è in testa qualcuno lì, un casino. E poi le radio, già lo so. Va bene, dai, io non riprendo più che è pronta la cena. Ciao Marco, io che l'ascolto, te Antonello, Natalino. E tutto il resto. Ciao, a domani signori, buonanotte a tutti. Ciao, grazie, andiamo domani, ciao. Sotto. audio, dai. Buonanotte, mi sono allungato il microfono perché ero distante. Sentiamo domani, dai. Lei costa anche nel fare radioamatore, costa anche farsi fare pirata però, perché se non ha le antenne giuste. Oppure ti accontenti, levi la bobina alla tua mantova, metti il balun adatto e ti fai in grosso modo un'antenna multiband. Però ti ci vuole anche un accordatore d'antenna. Capito? Ok, già lo so di questo studio d'accordo. Stavo pensando, invece che la diretta la facciamo la pelle, la facciamo la città giusta, lo sai, lo che c'è tu. E il palazzo è molto largo, perché se adesso qui sai dove c'è, c'è. Alla livello del pavimento della strada c'è, quella che c'ho io. Vai Natali. Poi mi segui un accordatore manuale buono, prendi quello che è natalino, si fai tutte le bande, da 1 a 60 MHz a corda, capito? Testato, testato dal sottoscritto. Su quell'accordatore famoso io, l'ho provato un giorno e questo già funzionava quando stavo usando il 40 metri, avete già accorta, cioè, quello mi aveva dato quello che mi ha dato il 140, funziona, è piccolo, un giocato ma va bene, è un kit, accorda anche bene, insomma. C'è anche il Marocco, già lo sai, c'è tutti questi pulsantini, fa un casino naturalmente perché devi azzeccare a un chilometro quale non è. Vedi? Quello di Natalino, no? Vedi che è lo stesso mio poi. Gli ho segnato tutte le... per ogni banda gli ho segnato le impostazioni, in base alla mia antenna. Capito? Il preselettore, puoi mettere per le due manopole, sono numerate le manopole, no? Per ogni banda li metti tot numero a destra, tot numero a sinistra. Il preselettore lo metti nella banda giusta, diciamo, nella quando senti più QRM, no? Bello, bello, molto bello. Non costa nemmeno molto, vero? Natali, diglielo. Comprato adesso non te le ricordi, 150 spiccioli, è quasi 150 euro, dai. Quello è un bel accordatore, manuale, capito, anche se stazionario è molto alto te la corda, mentre gli accordatori automatici, soprattutto quelli piccoli, fino a 3 accordano, poi non accordano più, o sotto i 3 accordano. Sono limitati, capito? Quello manuale gli fa le scarpe 1000 volte, eppure è un giocattolino, non è niente di professionale, è un giocattolo, è piccolino, compone e non risponde, è schiattato. No, c'è uno che sta fischiando basso, avanti in volentieri. Non ho capito, no, io ci sono sempre, lontano ma ci sono, chi è? Ma chi è uno sta fischiando, sa che ero tre, basso, stavo fischiando, non ho capito chi era. Voi fischio vi chiamate, tutti chiamano Antonello e poi Marco, se non chiamano per nome e fischiano io non rispondo a nessuno. Sì, magari stavo accordando, pensavo fosse magari qualcuno va fuori, capito? Infatti non ho risposto. Io non mi chiamo Bruscio, capito? Quindi se mi chiamano per nome rispondo molto educatamente, fischio non mi chiamo, quindi... Bobby, vieni qua. Bene, bene. Ehi, Antone, sui quadri banda, sono debuttati. Tanto in PMR, situazione è quella che è. Ci sono tutti gli amici di Claudio. Eccetera, dai. Ma ci sono rimasti in tre, già, non te ne finisci uno. Ah, nemmeno in PMR. No, io sento sempre gli stessi. E sul 20 c'è la stessa storia. Mimì Cogò e cagami la biglia là. Chi Cogò e cagami un cazzo. No, tutto c'è, ma io no, niente da spartire con certa gente, ma te l'ho già detto, spiegato, te lo dico, ribadisco. Io sono qua rimango, ho tutto sotto controllo, quando ho voglia di fare oppure portati il piatto lì vicino alla radio e ascolta. No, io vi sento, anche lontanata vi sento, no? Qua è sempre tutto acceso, sino a quando non mi corico questo rimane tutto acceso. Sì, anch'io faccio così. Se tolto il baracchino posso spegnere la mezzanotte, come all'una, come alle due. Certe volte me lo dimentico anche acceso, mi rimane acceso tutta la notte. Tanto, se lo squeggi, rumori non ne prende, capito? No, tu immaginati che, vabbè, tutta la parte, quella HF, insomma, tutta questa serie qua, eccetera, sono su una linea dove c'è salvavita, eccetera, eccetera. Ieri che ho montato sulla linea diretta, quindi a presa diretta, perché avevo provato eccetera, ma l'ho lasciato acceso, figurati, ma non c'è il volume, stamattina mi sono attratto e l'ho visto acceso, e l'ho spento, perciò non c'è problema, già va bene, dai. Ok, no, c'era la roba al forno, sto aspettando che si raffreddi un attimino, poi vado a cenare. C'è un rumoraccio qua. C'è un rumore su tipo televisore, mi brrr, forte, mi aspetta, dico il segnale. Santiago 5, c'è un rumore tipo televisore, quest'ora sai, tutti guardano la televisione, quindi magari per quello. Invece se sei già in campagna, isolato, non lo senti. E vabbè. Ah, Elio, ci sei ancora, riprendi. Chi è che c'era? Elio Piuma, non ha chiuso, ma era qua. Ascolto, Elio, sta facendo cosa? Cioè, beh, stavo fischiando anche dopo, però. Lo faceva durante le pause. Cioè, nelle prime pause, dove non parlava, sentiva un fischietto un po', un innesco comunque. Ehi, ma il microfono troppo vicino alla radio lì. C'è talmente tanta roba, bisogna allungare la base. Va bene. Sì, Antonio, ma a parte gli scherzi, poi ti ripeto, puoi fare quello che vuoi, ma non te ne fa niente un quello qua. Se tu pensa che entro quest'anno passeranno tutti in digitale, cosa ti metti a ascoltare? In FMR di un paio di quadribanda se ti detto io, ma manco ci sto pensando. Vabbè, si ascolta la fonia in HF. Ah sì, beh, quello sì. Non radio completa, però alla fine non ci abbiamo, non serve a niente, no? Va bene, che lasciamo, no, meno 10 anni. Mi avvicino un attimino in cucina a vedere se possiamo iniziare a cenare, perché c'è roba al forno, per i formati e le cose stanno bollendo, a me caldo non mi piace. Eia. Poi quando in HF non ci sarà più la fonia, ma da entrare sarà preoccupante la cosa, dai. Te le immagini? Cioè sempre fonia, cioè parlando ma inascoltabile. Sicuramente c'è già qualche sistema o lo stanno studiando. Però non a tastiera, no. Cosa? Proprio fonia. Sì, beh, ci sono i cambiamenti, quindi è chiaro. Per noi di materia diverso, ci aggiorniamo, cambiamo, facciamo, ma per un CB, un istituto più è davvero seguire un po' la parte amatoriale diventa costosa, diventa troppo costosa, capito? Così non fa, vado, ripeto, ognuno, non è che si conta nessuno di tasca la gente, ognuno che ha la possibilità fa quello che vuole, segue, compra, vende e scambia. Bene meda. Sì, Antone, a parte gli scherzi, quadribanda, vabbè, ok, tu non abbia interessi sui 50 MHz, potrei andare sui 43, per esempio l'857 ci va, la HF bassa la fa dai 30 ai, l'ho detto poco fa, mannaggia, non me lo ricordo, 56 MHz, quindi quello fa da, trasmette da 1 MHz ai 56 MHz. l'FT857, in tutti i modi è sempre AMFM, SSP eccetera, e poi la V e la U, però la V VHF si ferma prima, mi pare 162 o 163 MHz, non so perché, gli esuli fanno così. E poi invece VHF fa 400 o 4 qualcosa e 470 o giù di lì, dai, la solita banda, dai. E non c'è nulla, Antone, cioè, ma perché non lo voglio usare per il PMR, ma come vedi anch'io non sto più entrando in PMR, no? Era a livello sperimentale quello che facevo io, come quella della volta a Polo Torres, ah, Claudio, con la scala a Polo Torres arrivavo, quello della telefonata. Quindi vedi che o dire quello che stai usando, non dirlo, gli organi di controllo sanno tutto, cioè è palese, se uno da Polo Torres arriva a fondo scala a Sassari, è palese, dai, che uno lo dica o non lo dica cosa c'ha. Come dicevamo e abbiamo sempre detto, nessuno è stupido, ecco perché io continuo a dire che lì non deve funzionare così come sta funzionando, visto che c'è un circondario di persone che sono molto vicine, fatevi furbi, no? Non stare lì con le massime potenze eccetera eccetera, tanto ti senti lo stesso, quindi cosa te ne fotte? Quei pochi che sono rimasti lì, fatevi furbi, invece continuo ad ascoltare e vedere questi segnali allucinanti. Cosa pensi che io sia stupido dopo 40 anni di radio e 25 di dalla radioamatore? Sono cose, ripeto, che a me non mi interessano più, ognuno deve fare quello che vuole, io faccio quello che mi aggrada, così sono finiti giù. Va bene, come lo se lo vuole comprare, se lo può benissimo comprare, ma lo usa come vuole, chiaramente tenendo conto dei rischi e delle cose che ci sono. Basta usarlo con la testa e vedrai che non succede niente. Dopo raga, dai, mi allontano di nuovo, se non riprendo vuol dire che sto mangiando. Ciao. Via, ciao caro. Io grazie a Dio sono usato con la testa la roba, quindi grazie a Dio sono ancora qua. No, però è già sparito come minimo. Sembra che prima una cosa del genere, cioè è inutile stare a prendermi per dire un IAESO che fa salire solo HF eccetera eccetera, poi pigliare magari un altro apparecchio, faccio una spesa unica, qualcuno se la tengo, sono stufo di comprarmi 50 apparecchi, ho l'altro uno, fa tutto e buh, tanto me siamo sempre lì, 300, 700 non cambiamo, da me c'è tutto uno e ho già finito. Quindi stammi a cellarmi con le cose, mi tengo solo gli apparecchi, dicevo, questi barattini, cioè il Connex 4000, il 39, il Magno, e quello che ho in riparazione, basta, tutto lì. Poi, boh, soldi non spendo più, basta, no, non ne voglio più spendere soldi, spendo anche troppo. Preferisco comprarmi al limite un motorino, una macchinetta 50, quello che è, cerca a trovarla e pigliami il patentino per la macchina, che mi interessa di più. Almeno quando vado faccio la spesa, posso andare tranquillamente tappato, no? Pigliami un prete in moto. Antonio, io in un certo senso me ne sono pentito perché... per ovvi motivi, perché pensavo di pigliare la patente, c'era l'idea un po', era passata l'idea, poi in fin dei conti non è una palla mi stare lì, coso, col cluster, col computer appresso, sempre. Mi preferirei, guarda, segnare i nominativi sul libretto, sul taccuino, piuttosto che stare a zuffarmi col computer, più la radio. Vabbè, ci vuole un po' di dedizione mia, se sei radioamatore, un po' alla modulazione. quindi prima di pentirsene, poi ricordati una cosa anche a Tonè, siccome è uscito il nuovo, è uscito il quasi sostituto del 857, dico quasi perché sembra l'857, no? Luce più bianca, azzurra, no? E l'hanno fatto solo HF e forse 50 megas. L'hanno fatto senza VEU, capito? Molto simile all'857 ma senza VEU. E alla fine hanno fatto un HF, cosa hanno fatto? Quindi l'857 è destinato entro breve a sparire, più o meno breve, quindi affrettati, non perdere tempo. Se proprio lo vuoi, poi se te ne stufi un giorno lo puoi anche rivendere, basta che non lo svendi, capito? Rivendere a un prezzo onesto, giusto, equo, equo per chi vende, equo per chi lo compra, capito? Ok, riprendi pure. No, sono cotto, lo stiamo vendo, ce la faccio, ho fatto già una volta con la pizzeria, via, era parecchio che venderlo, però quello era, l'ho fatto quando ero in via San Lorenzo. Se non sbaglio l'ho fatto io, e anche qua, con 680. Questa volta non lo sbaglio, non lo faccio più, capite? Se mi pido una cosa me la tengo a parte, preferisco vendermi qualche altra cosa per me, ma gli apparecchi rimangono dove sono. Io lo sai anche tu. Preferisco tenermeli, anche buttate una parte che non li sto usando, però rimangono qua. Già l'hai visto tu che ho il 4000, il 4002, il 2009 che ha più di 20 anni, è più meglio il 9, quindi vi guardi tu, tutto qua, compagnati due portate, vabbè, i due che a me ho dovuto comprarmeli, perché me l'avevano fu tutti, e quindi ho dovuto comprarmi i nuovi, 50 riempi di spesa, però poi mi ero ammortizzati, ho fatto l'impianto l'antenna, li ho recuperati per te. Poi c'è io, sono un set. Allora magari tengo la parte, conservati, quello che è, se userò, voglio usare un apparecchio unico per non stare a stare con 50 apparecchi uno sopra l'altro, eccetera, eccetera. Li conservo e ogni tanto lo accendo uno, lo accendo l'altro, li conservo uno. Ma sai cos'è Antonè, però con queste antenne verticali, almeno con io ascoltavo con la ma con questa antenna mia, la Energy, no? È rumoroso l'857, è abbastanza rumoroso. Il DSP non serve a molto perché è un DSP che funziona sull'audio. Mentre se vuoi una radio onesta, c'è lo IESO FT450D, FT450D ha il vero DSP che agisce proprio sul cuore della radio, è carina, esce anche decentemente, mi pare di averla sentita da una persona che non sta più entrando, spero, radiatore, non viene, no, Massimiliano mi pare. L'FT450D l'ho sentito uscire, sembra che sia abbastanza bene. Quella 600 te la paghi e te la cavi, capite? Solo HF, forse anche 50. Poi se proprio voi, VEU, ti pigli, quello che c'è a Natalino, il KT8009D, piccolissimo, piccolissimo, lo metti sopra almeno si vede, oppure il KT8009 senza la D, quello precedente, capito Antonio? Perché la parte HF va curata di più, mi dispiace ma va curata di più, perché c'è un apparecchio non particolarmente rumoroso, è una seccatura, e l'FT 857 un po' lo è, almeno con questa antenna che è per la 27, per ascoltare va grosso modo bene, però è rumoroso. Invece mi con l'antenna da macchina, l'857 è un bijou, non senti QRM, bella taratta, senti bene tutti, non senti QRM, capito? Per esempio se usi un'antenna a polarizzazione orizzontale, no? Che sia di polo, che sia direttiva, senti molto meno QRM, molto meno. Se capi Antonè, molto meno, e quindi questo FT450 c'è anche il DSP reale, molto bello, come apparecchio a me piace molto. piace molto come estetica anche. È diverso un po' dagli altri, però a me piace. A te non lo so se può piacere. E poi vedi tu, se ti piace tutt'uno, prendi tutt'uno, però poi se si guasta, si guastano tutti, HF, V e U. Invece gli apparecchi singoli, separati, possono... Ma non lo so, Antonio, vedi tu. Ho parlato anche troppo, mi manca il fiato. Andiamo a fare un giro in Cina. Vabbè, Feitong. Sai cosa di buono? Forse che esce bene in AM, quello sì. Dovrebbe uscire bene in AM, ma anche l'857 con la modifica al microfono esce bene in AM. Certo non credo che tu li possa mettere un amplificato perché c'ha un maledetto LC o come si chiama, l'AGC che chiude la modulazione, interviene subito e te la strozza, capito? Puoi mettere un microfono da tavolo ma regolato come normale, capito? Come sto. Ola, ecco, io sto usando adesso l'MB più 5 regolato a 2 come fosse un mic normale. Allora, così lo puoi usare, per dire. Ma se lo vuoi forte, amplificato, no? Guarda, Natalino, non so che impostazioni abbia messo quella volta per uscire così bene, come dice lui. Sarebbe bello scoprire, io le ho provate tutte le impostazioni, ma faceva sempre schifo. Ho seguito anche le impostazioni che ha dato un CB. Un CB le ha messe sul forum le impostazioni, dice, queste sono le impostazioni per uscire bene in AM con l'857. Le ho provate ed era atroce. Una modifica buona era quella consigliata da un radioamatore. Togli una resistenza e cambi il valore di un condensatore. E infatti lui è uscito bene in AM, capito? Ed esce però come un baracchino normale, non amplificato, capito? È una fesseria da fare. Se ti accontenti di uscire con una radio normale 27, con una voce normale 27, lo puoi fare. Se metterò presto, metterò provi. So che ti temo a te, magari te ne vai in zone senza accordatore, e lo bruci. Chiedo che dopo prevano in zone, già lo sai, che un giorno a parte non ci avevo fatto l'antenna per andare dove fare i piacci. Avete avuto dopo l'11:45 mi ha detto con la forbice che sei andato sì, con la volta. Il discorso è quello. Casa c'è la roba non posso usare, c'è la terra giù che se ne sta vivendo in garage, se ne sta vivendo, da te va bene, da te messa lì dove sei tu e un bici con l'altezza, messa due metri d'altezza e un bici, io se l'ho messo qui sai dove la tira, e c'è l'apparato, perché siccome è lunga, secondo me sono 4 metri per parte, quindi figurati tu, spunta l'apparato minimo 2 metri e mezzo, cosa vedi? E almeno l'altra non si vede niente, rimane tappato, perché c'hai, sei al centro del tetto, con quell'antenna lì. Non male che faccio un viaggio molto veloce, ma ce la saliamo su, mi la prendo, è della piazza di me, fissa. Marco è vivente, si possono chiedere di nuovo le postazioni? Marco Scorpio, già lo sai, abita vicino a lui, su al monte. Aspetta, avete parlato in due, vai Natalia. Ma dico, se si ricorda le impostazioni si può provare. Però adesso ci vorrebbe il microfono originale, non toccato, capito? Il mio è toccato. E guarda, prima proprio bruttissima la radio, poi una volta fatta la modifica esce bene di radio, però non amplificata, esce con una radio normale. Ah, sono, aspetta che lo metto a 5, avevo il microfono basso. Capito. Poi volendo per l'857, diciamo di serie ti danno il microfono nero che ha solo 3 tasti, no? Però volendo puoi prendere quello bello, l'MH59, che ha la tastiera completa, quindi puoi andare direttamente sulla frequenza, c'ha un bel di funzioni e quello è molto bello anche. Ed è a condensatore, capito? Mentre il microfono originale è a capsula vera e propria, no? La, come si chiama il tipo di capsula normale? Uffa, mi sfugge il termine. E invece l'altro è a condensatore, quello con tutti i tastini e tastoni. E tu che l'hai venduto? Comunque sì, vabbè, l'857 in FM e in banda laterale esce già bene. Il problema è solo la M, è solo la M. E io l'ho risolto, vabbè, in quel modo lì. Però sapendo le impostazioni, ma eppure nessuno sui forum le ha messe le impostazioni, cioè uno le ha messe ma erano tutte sballate, bruttissime era, tutto alterato proprio, no? Oh. Ascolta, come usciva col microfono che avevi tu con la tastiera? Usciva bene anche normale o dovevi fare le impostazioni? Ma Marco chi? Non ti sto capendo io. Ma io non lo so, tu mi stai parlando di gente che io non ho conosciuto. Marco Scorpio, Ah, e basta dirlo, no? Sì, Marco Scorpio lo conosco. Ah, e quindi lui esce bene con quelle impostazioni, vabbè, però almeno lui in macchina lo può tenere. Io ho già un rischio che lo porti senza microfono solo per ricevere, capito? Se gli togli il microfono sembra un ricevitore. E prende bene mi dalla macchina, minchia, anche se vai, sai dove? Dove va Vittorio a modulare, mi, al centro ecologico, lì è in alto e prende molto bene, caspita, un bijou. Sì, è bello, sì, anche lì c'è. Puoi mettere il frontalino, poi lo puoi staccare in un attimo, farlo sparire. Abusivo, abusivo. Ascolta, tu che antenna usavi dalla macchina? No, dico, per le altre bande, per sentire in HF, cosa usavi? Oh, ma verticale o direttiva? Ma non erano gli stili della Eco, no? Bello, Ok. Oh, poi adesso noi vantiamo tanto gli stili da Eco, ma all'epoca c'erano solo quelli tanti anni fa. Adesso ce n'è a buttare di antenne di tutti i tipi per la macchina, con accordatore automatico, no? Che proprio si muove l'antenna, non si accorda. La Props e il Prox1, bene o male, va abbastanza bene, si riesce a tarare. Proprio centrobanda a 7100 e 1.5 a 7050 e a 7150. Per dire, certo è corta, ma tutte le antenne HF in macchina sono corte, capito? È un compromesso, però funziona, funziona. Per i 40 metri è regolabile, non c'è questo spinotto con questo cavetto, in base alla banda lo metti, regoli lo stilo per sparare la banda, capito? E per quello che costava era bella, soprattutto per ascoltare è molto bella come antenna. Sì. Quella della Iesu mi pare, vero? La conosci la ATAS 250 della Iesu? C'ha un credo motorino dentro. Tu premi un tasto sull'857 per esempio e quella si tira da sola, c'ha proprio una bobina mobile che va su e giù, no? Da spiegare adesso non te lo so spiegare, però costa un patrimonio, costerà un 250-300 euro, capito? Se ti interessa una sola banda, meglio avere un'antenna fissa su quella sola banda. Nemmeno 45 metri? Eia. Perché rispondono subito, sono aperta, ho fatto solo una chiamata, c'era un gruppo di gente, avanti chi chiama dalla bara mobile, ma ho fatto solo la chiamata, poi non, lì non si può stare, sono andato via, però appena chiamato hanno risposto, ottimo. Oppure Antonè, una soluzione per te, visto che tu non puoi mettere né verticali né direttive, no? Come si chiama quell'antenna a cerchio? Quell'antenna a cerchio, lupo magnetica, come si chiama? Lupo magnetica. Non so se l'hai mai vista Antonè, è abbastanza piccola. È fatta a cerchio e non so se è multibanda o se monobanda, ma penso monobanda. Quella è abbastanza semplice, abbastanza piccola perché sai, è sviluppata a cerchio, quindi ha poco ingombro anche quella, capito? Non so niente di quelle antenne a cerchio comunque, però ci sono, qualcuno le usa, immagino che possono andare bene, no? Antonè, poco spazio. Ma planeta figlio? È una di che è molto. Infatti, mi sembrava strano Claudio, planeta, ho detto ma sarà il figlio allora, che planeta era morto appunto, ma non lo sapevi Natalia. Sì, è morto, non da morto, è morto, non c'è più. Dicevo, Claudio, tu le conosci queste antenne a cerchio? Come si chiama? Lupo magnetica o come? Ma per che cosa? Per la 27 o per che cosa? E altre bande eventuali, 40, sempre parlo da un punto di vista amatoriale, no? No, le ho viste ma non so che bande faccio. Sì, poi me la guardo in radio, me la guardo su internet, voglio vedere com'è, cosa serve, le dimensioni. Antonè, male sarebbe un cerchio largo un metro solo, magari è tarabile anche per i 45, chi lo sa? Ah, ti piacerebbe? Ah, se non risponde, accediamo. Oh raga, è un po' tardi però, io mi perdo il film, nel caso ce ne sia uno. Ieri era tutto film, tutto film. Per tutti i gusti c'era maschi contro femmine, molto carino, su Rai 1. Io mi sono guardato... Cosa mi sono guardato ieri? Manco mi ricordo il film di ieri. Inception, com'è? Non si capiva una massa di quel film, era tutto strano. Mi sono applicato poco e non l'ho capito. Guarda, un trip era, figurati se ce la può vedere mamma quel film, che non capisce i film normali. Ehi, non era mai uscito tonta. No, ma sai, lì quando sono trame un po' complicate non le segue. Quell'Inception è tutta una cosa strana, non te lo sto a spiegare perché, guarda, è un film peggio di quelli di David Lynch, che già sono astrusi. Io vi saluto nella sala a letto. ora, vai a letto alle 9, non ti vergogni. E anch'io sto chiudendo, vai, sono entrato proprio per spegnere tutto, c'è un film, me lo guardo. Ciao signori, buonanotte a tutti, a domani, ciao. Eia. Ciao Pinù, buonanotte. Aspetta, c'ho il microfono in mano, così lo prendo, tipo cantante rock. Ecco, ciao Claudio, ci sentiamo domani, dai, adesso io spengo, lascio acceso e me ne vado là a guardarmi la TV, ok? Ciao Natalino, ciao Pomponio, se sei all'ascolto, visto che... E ci sentiamo domani con calma, ciao a tutti. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Carlo, buonanotte. Capito Antonio? No, stiamo mangiando il fuoco, dimmi. Ho detto, visto che tu non puoi mettere direttive per ovvi motivi, no? C'è quel tipo di antenna a cerchio che mi pare si chiami lupo magnetica. Quella occupa pochissimo spazio e permetterebbe di lavorare almeno su una frequenza. Poi chi lo sa? Il gatto rubando il cibo da mangiare, te le immagini? Un cane mocchio è questo gatto, altro che il gatto. Capito, l'antenna con diametro di forse un metro almeno, a cerchio, un cerchio, è tipo cerchio di bicicletta, e ti permette di trasmettere, non so le caratteristiche, non so niente, me lo devo guardare su internet, capito? A me la pista bene come tu, non è che devo comprare una antenna, no? Basta quello che ho, ne aggiungo di più, me ne metto di antenna, no, basta quello che ho di antenne, se la biglia è cura, non è che devo fare... Lo sai che io qua non posso mettere più di quella cosa, già ho bisticciato per fare la X300 e la direttiva, figurati tu se me ne devo mettere una tantetta. O Mimmo mi ammazza. Se dovessi cambiare casa, allora sì, se trovo una villetta faccio quello che mi pare, mi piace, per dire, se riesco a trovarla alla fine di su, per andare verso Osimi, una cosa del genere, una bella villetta lì, dove hai fatto 13, con un palo avevi installato un sacco di tutti, quello non volevo installare. Vabbè. E prima pensa a un'antenna decente, dai, la villetta verrà dopo. Guarda, ti basterebbe anche un dipolo monobanda trappolato, tipo ProSystel, PKV o roba del genere, non mi ricordo chi li fa, trappolato, c'ha delle... per accorciare fisicamente la... o caricato che sia, per accorciare fisicamente la lunghezza, capito? Fisso, poi ci puoi mettere un rotolino di chi si... le giri lo puoi mettere. Vabbè, dai. Ciao Antonio, buonanotte, sono il naso tutto gonfio, mi devo mettere quel medicinale, ci sentiamo domani, ok? Ciao Antonio, buonanotte. Non mi esce il microfono, aspetta. Ciao Marco, buonanotte, domani mattina. Anzi, domani, no, domani mattina, tu sei dormito domani mattina. Ci vediamo domani quando ti svegli. Buonanotte, buon tutto, ciao. Aspetta, vieni qui, qua, vieni. Anzi, ma il video l'ho fatto con cosa? Con Tommy stasera. E la video. Eia, basta che non mi mandi soccerie. No, il video con Tommy e mia nipote che era qui. Si piano tutti per il culo uno con l'altro. Ah, Zora sia. Aspetta che te lo mando, così lo vedi. Occhio, c'è Zora sia. Ma cos'è? Dimmi, si definisce Zora sia. Ah, che piace, si dica, aspetta. Non sai niente, cazzo, non sai niente. Aspetta, 2 minuti che ti mando quel video. Cazzo, 2 secondi, se no capisco come la fanculo. Oi. Ok, va, manda. Quando mai un pornografo non sa cosa vuol dire Zora sia. Ragazza lì, regala a me, ma ti è arrivato? Marco, ti è arrivato il video, sì. Antonio, chiusomi. Dimmi tutto. Ti è arrivato il video di WhatsApp? No, ancora no. E non prende qua. devo andare nell'altra stanza, dai. Ciao Tony, dai, buonanotte, ci sentiamo, vado nell'altra stanza così mi arriva il video, dai, ciao, ciao. E non esce la portante, uffa. Mettimi in giro i cicchi. Cos'è come lo sportello della vacca di John Van? Quando va qui sembra lo sportello di una porta antica. Sembra. Lo sportello della? Di una di quelle porte antiche, ti dico di quelle porte grandi di chiesa. Uguale. Lo sportello di John Van è uguale. Quando tu apri fai... Devi dire lo sportello della macchina di Giovanna, se no sembra che Giovanna abbia gli sportelli. No, la macchina è sua, lo sportello l'ha fatta a te che è guidatore, quando lo apri, è proprio bello. Basta lubrificarlo, c'è un po' di grasso, che almeno non cola, almeno non, è, non col freddo. Più bene, c'ho il naso gonfio, le mucose gonfie, mi devo mettere quella rinatina si chiama, spray nasale decongestionante delle vie nasali. Ok, ciao Antone, buonanotte, ciao a tutti gli ascoltoni, dai, ciao, ciao, ciao Marco, ciao, domani ci sentiamo, buonanotte. Tu usare il coso, la cosa della rinatina quello per allargare la canna. La peretta usa, ti si apre subito il naso, non ti preoccupare. La peretta, quella di Cristini, quella la usi tu, mi. Cazzo, non te lo so, io ho visto le ultime perette che esistono, guarda, è una cosa allucinante, lunga 1,5 metri. Infatti guardavano per via Sant'Enno, via Saggetta. 1,5 metri di lunghezza, gli ho detto che se avevo detto una cosa del genere, gli ho detto che ti esce dalla gola, gli ho detto. Dice, questa qui usiamo adesso. So, ho detto, guarda, fosse stata forse un fatto da avessi accata in quello lì, ho detto la verità. Oh, mamma mia. Beh, ciao, io che stai iniziando, guarda che su Rete 4 c'è un bellissimo documentario sugli animali. Bello, mi Rete 4, è già iniziato. Ciao, io me lo guardo. Guarda gli animali quando fanno lo stesso, guarda. Impara. Ancora no, ciao. Grazie a Dio, non ho bisogno. Come stai? Già un giorno non ti sentivo più, Ciao, no, grazie a Dio, no? Già mi vuoi bene. Io lo so a lui, no? No, mica guardo quelle cose io, grazie a Dio, non le guardo, parlando. Ehi, già lo so. Ciao a tutti. Ah, dopo il dato che sei entrato, ma se tu vieni a vino di produttore, se che... se lo recuperi. Dici che c'è un po' di roba da dargli, che ci faccia vivo, che mi chiami a me al telefono, che io il telefono sono perso. Chi è questo? Un po' di sorso. Direttiva su un garage, viene se la porta a me, sta a casa sua, la lascia che si la buca però, capito? Io che mi telefoni, che c'ho un po' di roba da garage, ce la vuole, si faccia vivo e basta. Chiede magari qualcuno che è stato dove si è trasferito, non so chi è stato trasferito, ma non mi ricordo più dove. Non mi ha capito trovato addirittura il numero del telefono suo, non mi ricordo niente. Chiedi se conosci qualcuno magari o... qualcuno che non so se frequenti con lui, in modo che mi telefoni, così almeno lì si potrebbe andare a fare, capito? Per il garage non è potuta questa cosa lì, se non fa fuori un pulire, capito? Non so cosa fare, non si trova niente. Saluto mia cartella che faccio così, è volabile, poi me ne vado a guardarmi televisione. Sentiamo lì mica domani sera, sei interato. Quasi un mese, anzi più di un mese non ci sentiamo, la verità. Siamo in muta 4 mesi. Andare. Ciao, fra con lì, ci sentiamo. Il lavoro, e ma anche se sono andato anche in culo, meglio avere lo stipendio prima, fudendini, vuoi che mi chiamo adesso? Cocco. Ciao Lello, buonanotte con tutto. Ehi, ciao, buonanotte con tutto.